известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. I just want to say that the only thing less popular than putting money in the banks is putting money into the auto industry. Questo è Barack Obama che continua la sua tournée televisiva. Guardate che domani sera è in prime time in tutta America, è andata 60 Minutes, il talk show della CBS, ospite di Steve Croft, e a un certo punto gli è presa quella che in due parole si chiama la ridarella. No, no, there's got to be a little gallows humor to get you through the day. You know, sometimes my team talks about the fact that if you had said to us a year ago that the least of my problems would be Iraq. In sostanza, il suo intervistatore Steve Croft gli sottoponeva problemi rognosissimi, naturalmente a cominciare dalla questione economica. Aveva puntato l'inizio, no, la parte calda dell'intervista sul mettere Obama alla sbarra, e a un certo punto Obama letteralmente ha cominciato a ridere, a dire cose del genere: ma forse l'unica cosa meno popolare in questo momento di mettere i soldi in banca e investire in automobili. E giù una bella risata. E poi ha raccontato come certe volte lui e il suo staff, immaginiamo nello studio ovale, insomma nel mitico studio ovale, si guardano in faccia, probabilmente, come dire, travolti dalla quantità di notizie perlomeno non buone, e a un certo punto ridono. L'intervistatore ha detto: ma sei ubriaco? Gli ha detto, che poi non è una cosa, caro intervistatore, da dire al presidente. Lui ha detto: no, è che ci vuole un po', in sostanza ci vuole un po' di umorismo. È stata intensa a 360 gradi l'intervista fatta a Barack Obama. Ha parlato di questioni che oggi vedremo spuntare da più parti del nostro programma, questo inizio di settimana qui a Jefferson, questioni che riguardano non solo l'America, non solo le questioni interne, ma il mondo intero. E non a caso nella seconda parte del programma poi ci occuperemo di Medio Oriente, di nuove prospettive, di nuove iniziative, di nuove mosse e di tutto ciò che ne può sortire o non sortire. Invece, per quello che riguarda la parte economica, ci sono comunque alcuni aspetti, alcune affermazioni prodotte dal presidente nel corso dell'incontro con il suo intervistatore che vale la pena di ripercorrere. Per esempio, quando ha detto di veder nascere dei barlumi di speranza nell'economia americana, quando ha messo in guardia il Congresso contro una reazione eccessiva nei confronti dei premi concessi dalla AIG. Ne abbiamo parlato tutta la settimana scorsa. Il discorso in sostanza è che va bene ammonire il management, va bene dire che è uno scandalo che questi soldi vengano distribuiti, ne abbiamo discusso anche con voi a più riprese, ma in sostanza il fatto è che non può troppo a lungo questa questione diventare un impedimento, no, all'avanzamento poi delle tecniche di confronto con la crisi in questione. Cominciamo a vedere barlumi di speranza qua e là, questa è la frase che è stata più ripresa dai giornali nei confronti di Barack Obama, nonché questi rischi sistemici che secondo lui possono ancora esistere laddove il fallimento di una o diverse istituzioni maggiori dovessero dar luogo a un vero e proprio effetto domino. Poi ha cominciato a parlare ciò che invece sta andando adesso in diretta dai teleschermi americani, cioè questa nuova ricerca di denari con nuove metodologie, con domande sempre più pressanti da parte degli editorialisti: dove li prendono questi soldi, di questa gigantesca partnership, no, tra pubblico e privato, con cui si vorrebbe risolvere definitivamente il problema delle attività tossiche racchiuse nei bilanci delle banche americane. Sarebbe una soluzione escogitata da Tim Geithner, il ministro del tesoro americano, e ne aveva già anticipato le linee su un articolo, in un'intervista sul Wall Street Journal. Oggi si sta occupando di fare la comunicazione vera e propria, quella corposa, dal ministero e da Washington. Si parla di una capacità di rilevare titoli fino a 1.000 miliardi di dollari, cosa che desta reazioni piuttosto violente da parte della stampa americana, di specialisti. Paul Krugman, premio Nobel, economista del New York Times, ha preso posizione sulla consistenza effettiva di questo piano, anzi ha preso più che posizione, ha detto che questo piano è addirittura pericoloso in assoluto per l'economia americana, ed è in atto quella che noi abbiamo chiamato la fine della luna di miele del rapporto tra presidente e grandi editorialisti, una vera e propria luna di fiele. Una luna di fiele che è andata in scena allorché sul New York Times, non so se per coincidenza o per volontà, tendiamo a propendere per la seconda ipotesi, per volontà, insomma, alcune firme di grandissimo peso, a cominciare proprio appunto da Paul Krugman, a seguire con Thomas Friedman e poi con due dei tre editorialisti più amati del quotidiano newyorkese, ovvero Frank Rich e Maureen Dowd, nello stesso giorno hanno scaricato veleno sul presidente. Rich ha sostenuto che Obama non capisce la portata della rabbia degli americani per come stanno andando le cose nel paese, soprattutto sul fronte economico, che la vicenda dei bonus ai manager ha peggiorato le cose. Friedman si è occupato del caso IG in particolare, sostiene che Obama ha perso una opportunità enorme per cominciare un serio dialogo con l'America indignata, che ha lasciato il paese in una situazione in cui sembra mancare ancora la leadership capace di ispirare. Quindi questo è un vero attacco proprio alla personalità politica di Obama, per quelli che sono i suoi presupposti fondativi, no? L'ispirazione che è all'origine della sua candidatura. E Maureen Dowd, la signora terribile della stampa americana, ha fatto un articolo a modo suo, no? Un po' a forma di spirale. Ha cominciato partendo da Michelle Obama, dalle sue iniziative, che sono sicuramente lodevoli, poi un po' alla volta si è avvicinato nel suo articolo alla questione IG, alla capacità del presidente di gestirla. Uno scenario, scrive, che fa sorgere il dubbio che se non ci sia l'Obama sbagliato dentro lo studio ovale, ovvero insomma dovremmo mettere Michelle al posto di Barack e via discorrendo. Qual è la sensazione di fondo che vogliamo dare? Da un lato che è finita appunto la luna di miele su The Politico. Il messaggio complessivo viene interpretato come l'opinione dell'elite lungo l'asse Washington-New York, secondo la quale Obama sarebbe sempre più schiacciato dagli eventi e non comprenderebbe fino in fondo lo tsunami del populismo scandalizzato, dell'opinione pubblica scandalizzata riguardo alle questioni dell'economia. Io mi permetto di dissentire un filo, insomma, su questa onda, no, già di insofferenza, così, di in un certo senso anche un po' di rigetto nei confronti dell'operato del presidente al 63° giorno di Casa Bianca. Sono due mesi che Obama lavora lì, sposta le cose e fondamentalmente cerca di turare le falle facendo fede sullo staff, sulle persone che si è scelto. Mi sembra che in una situazione di questo genere, con un'emergenza di questo tipo e con uno sforzo congiunto da parte dell'America che Obama ha invocato e credo in una certa parte anche ottenuto, bisognerebbe se non altro prendere un po' di tempo, attendere un po' di tempo a scatenare, a togliere già la sicura alle armi mediatiche, alla artiglieria dei grandi giornali, che mi sembra abbiano già deciso di provare a scaricare Obama, se non altro per accendere la polemica e forse anche per vendere più copie. Credo che le cose si stanno facendo, i tentativi vengono consumati, una logica generale si intuisce, le grandi linee di questa logica più volte le abbiamo ripercorse e passano attraverso comunque un coinvolgimento, un investimento anche fattivo, anche di quattrini, e un connesso rischio delle carriere di tutti coloro che lo stanno promuovendo, mi sembra, assecondando una visione, distruggerlo, minarlo alla origine, a fronte poi mi sembra di teorie alternative non particolarmente floride, mi sembra appunto un atteggiamento in questo momento un po' snob e forse più che altro alla ricerca dell'attenzione. Tra poco ci occuperemo, dopo l'anticamera di Express Yourself, in cui siete voi a esprimere i vostri pareri sulle iniziative di politica internazionale relative al Medio Oriente, assolutamente straordinarie, messe in scena dall'amministrazione Obama nella seconda parte della scorsa settimana, Poi ci avvicineremo ancora di più agli scenari Afghanistan e Iran, che sembrano quelli in politica internazionale, naturalmente triangolando su Israele, sui quali Barack Obama al più presto vuole muovere le sue carte. Sempre un giorno duro, difficile, no? da ripartire con il ritmo giusto, ma questa canzone a me riconcilia, caro Emiliano, con la vita e perfino con il lunedì. È Eddie Vedder, il cantante di Pearl Jam, questo si chiama Guaranteed, ed è i titoli di coda di quel bellissimo, tardivamente da me scoperto film, chi se ne frega, direi tu, Into the Wild, il film di Sean Penn sulla strana vera avventura di un giovane ragazzo che trova l'incontro con la natura, ma anche qualcosa di meno gradevole su a nord. Non trova Sarah Palin, ancora non c'era, ancora no, quando la storia vera va in scena. Siamo a Express Yourself. Dunque, Barack Obama, sapete, ne abbiamo già parlato, il messaggio video indirizzato al popolo iraniano in occasione della grande festività locale, al popolo iraniano, naturalmente ai suoi leader, un messaggio di toni completamente diversi da quelli fin qui, negli ultimi forse anche 30 anni, rivolti dall'America all'Iran. Si parla di pace, di relazioni tra due nazioni rivali, ma di un nuovo inizio, di un futuro, di rinnovati scambi, di opportunità di collaborazione e commercio. Si evocano mutuo rispetto, che l'Iran abbia diritto ad avere il suo posto in una comunità delle nazioni. A un certo punto, anzi, l'Iran viene chiamata anche con il suo vero nome, una cosa che sicuramente avrà fatto tremare le vene, no? alla guida religiosa e anche politica iraniana. Insomma, le reazioni da parte di Teheran non si sono fatte attendere. Ha parlato il consigliere per i media di Ahmadinejad, che si chiama Akbar Javanfekr, ha detto che il giudizio è favorevole, accogliamo con favore la volontà del presidente, non si deve però chiedere all'Iran di dimenticare unilateralmente l'atteggiamento aggressivo americano del passato. L'Ayatollah Ali Khamenei ha detto che non si potrà comunque fermare la marcia dell'Iran verso il nucleare, ma insomma tutti i segnali, sempre guardinghi, sempre per carità, facendo finta, no, che nulla è cambiato, ma segnali ne sono arrivati. Vi abbiamo chiesto come voi giudicate l'iniziativa di Obama, se vi ha sorpreso, se la ritenete vera o solo un colpo mediatico, se può raggiungere risultati, se esiste quindi, se si vedono i primi effetti di un vero ricambio consumato dalla Casa Bianca. Allora, in ogni caso mi sembra di capire che la via della diplomazia è lunga, tortuosa e ci vorrà comunque molto tempo. Allora partiamo con Massimo, che ha la memoria lunghissima, perlomeno abbastanza lunga, perché si ricorda di Gheddafi e dice: forse potrò sembrare cinico, ma lo stesso Gheddafi era più arzillo prima di essere stato pettinato. Interessante questo termine usato da Massimo, dall'amministrazione Reagan. Massimo sostiene che i stati come l'Iran vanno gestiti in maniera autorevole, perché il deterrente è una pistola, forse quella esibita da Bush, è una pistola ancora più grossa. Quindi meglio la diplomazia che insomma le armi, certo, più o meno leggere, più o meno pesanti. Poi invece c'è Nevio che è molto critico soprattutto nei confronti dell'Iran, perché scrive: qualsiasi governo iraniano, riformista o conservatore, inseguirà sempre un obiettivo che è insito nell'animo di ogni iraniano: diventare l'unica e incontrastata potenza regionale. Quei sottotitoli infarsi sembravano superflui, il messaggio di Obama è più rivolto soprattutto alle opinioni pubbliche occidentali. E poi c'è chi vuole addirittura Obama per il premio Nobel della pace. Già subito. Allora, no, chiede tempo anche lui, ma insomma crede Mauro che sia sulla buona strada Obama, perché dice: politicamente una scelta vincente, perché se l'Iran avesse rifiutato la mano tesa, Obama avrebbe potuto scaricare la responsabilità su di loro e quindi giustificare scelte di continuità con il passato. Se come sembra, e seppure a rialzo, l'avvicinamento è possibile, allora Obama si candida al Nobel per la pace. Adottiamolo, scrive con 6 punti esclamativi Mauro. Flavio, è un mix di volontà effettiva di cambiamento e di presa di coscienza che Bush avrebbe tirato troppo la corda. Francesco, si catturano più mosche col miele che con l'aceto. Io questo bella, bella questa mi piace. Bravo Obama, conclude. Andrea, sorpreso, dice: sì, ma su tante questioni geopolitiche l'Iran ha un ruolo centrale. Poi ci sono le elezioni in Iran, ricorda, e Obama vuole chiarire la sua posizione. Cristiano, credo che l'iniziativa di Obama possa raggiungere risultati positivi solo se seguita a stretto giro da iniziative concrete. Sandro, come si direbbe a 3-7, ha sparigliato, ossia ha preso in contropiede entrambi gli oppositori, quelli americani e quelli esterni, e non a caso i più digiuni di internet. Paride, la mossa di Obama è apprezzabile, il nemico deve essere lavorato ai fianchi, sarà il tempo a dire se si è trattato di un'idea giusta. Io vado avanti con Mauro che dice: visto che la guerra non è servita a niente tranne ad arricchire i commercianti d'armi, si prova con l'esatto contrario, cioè il dialogo. Poi c'è Alessio che io non capisco cosa intenda, perché anche lui scrive pochissime battute, ma molto, molto chiare in quello che scrive, ma non appunto nello scopo. Sentiamo. È la classica carotina prima dell'inevitabile bastonata. Chissà dove vuole colpire Obama. Bastone e carote, sta il metodo americano. Sì, no, ma qual è la bastonata che attende l'Iran, insomma, da parte di Obama? Chi lo sa? Insomma, poi, Obama vuole cambiare l'aria del regime change, insomma, del metodo. Come tra l'altro appunto poi prosegue Manuel, che dice: un atteggiamento giusto per guadagnare credito internazionale e soprattutto presso gli stessi iraniani. Allora, gli ultimi tre. Giulio, Obama fa l'unica cosa da fare, aprire un dialogo spiazzando l'avversario. Lucio, ecco la prova che Obama vive nel mondo dei sogni. Crede che con un po' di buona volontà si possa ammansire chi è convinto di avere una missione divina da compiere. Niente, non c'è trippa per Lucio. E infine, Luca, dopo i video farneticanti di Bin Laden e quelli minacciosi e rispettosi di Bush, ecco un leader che sa parlare all'intera comunità mondiale. Almeno Luca ci conta. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. Times of trouble, we never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Don't change the color of your hair. Mm-hmm. You always have my unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation. Never want to work that hard. Mm-hmm. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Presidente 44. Obama alla Casa Bianca. Making sure that Al-Qaeda cannot attack the US homeland and US interests and our allies. That's our number one priority. And in service of that priority, there may be a whole host of things that we need to do. We may need to build up economic capacity. E questa è ancora l'intervista a 60 Minutes di Barack Obama, allorché è interrogato da Steve Croft, il giornalista, sulle questioni di politica estera, in particolare di Medio Oriente. Barack Obama è stato piuttosto esplicito, devo dire anche piuttosto chiaro e circostanziato nelle sue intenzioni. L'invio di rinforzi in Afghanistan, ha detto, è stata la decisione più difficile del suo mandato fin qui. La priorità numero uno è assicurarsi che Al-Qaeda non possa attaccare il territorio americano, gli interessi statunitensi, ma anche quelli dei nostri alleati. Al servizio di questa priorità occorre rafforzare le capacità economiche dell'Afghanistan, rafforzare i nostri sforzi diplomatici nei confronti del Pakistan e avere un approccio più regionale, ha detto, del problema afghano, che includa l'India o l'Iran, ha detto Obama. E poi ha concluso con una frase secondo me molto interessante. Tra l'altro c'è stato anche un discorso di numeri su questo stanziamento di truppe, c'è anche molto dibattito più in generale al di fuori delle interviste di Obama in questo momento, ma lui ha detto comunque, per concludere questa parte dell'intervista, una cosa importante. Ha detto this is not a perpetual drift, in sostanza guardate che non è che vogliamo stare lì all'infinito, a un certo punto una exit strategy fa parte delle cose di cui vogliamo discutere al più presto. Tra l'altro un interessante articolo uscito su The Politico oggi fa anche delle predizioni in questo senso e dice che quanto ci vorrà andarsene dall'Afghanistan, secondo questi addetti ai lavori, si tratta come minimo di 5 o 6 anni, ovvero secondo loro Obama consumerà praticamente tutto il proprio doppio mandato, sempre che possa contare su un doppio mandato da quelle parti. Su tutto ciò, e poi ci piacerebbe anche, se il tempo ce lo permette, spingerci a fare qualche ragionamento attorno all'Iran, vogliamo coinvolgere Antonella Deledda, che è la presidente di Argo, un think tank di analisi e ricerche geopolitiche sull'Oriente, con attenzione specifica sul subcontinente indiano. Buon pomeriggio, Antonella. Ciao Stefano. Allora, c'è tanta carne al fuoco, proviamo un po' con il tuo aiuto a tradurre in scenari ormai vicini, ormai prossimi, quello che Obama ha provato a spiegare agli americani, come lo inquadri? Ma dunque, a me pare che appunto rimanga intatto l'obiettivo, che è quello di battere il terrorismo e di proteggere gli Stati Uniti e i propri alleati. Quello che cambia e la strategia su come affrontare questo problema. In questi 7 anni e mezzo si è dimostrato che la strategia prevalentemente militare, non dimentichiamo che ad esempio in Afghanistan il 90% degli stanziamenti americani, nonché quelli italiani, sono andati per mantenere la presenza militare, questo genere di impegno fallisce semplicemente perché non si ha a che fare con delle armate convenzionali, e quindi andare a rispondere con degli eserciti convenzionali ad una insurrezione che ha mezzi molto più insidiosi non funziona. Obama ha usato tra l'altro nell'intervista di qui sopra un'espressione interessante, civilian surge, un aumento di civiltà, non so come dire, un aumento di impegno civile. Io direi che appunto inizialmente lui è stato molto criticato per aver come prima decisione verso l'Afghanistan preso quella di aumentare le truppe. In realtà quella era una decisione pressoché già presa e inevitabile, perché è evidente che c'è anche un impegno militare che va proseguito, perché non si può rischiare di perdere. C'è anche chi dice che c'è un'opzione militare, ovvero che che i militari forzano per un ulteriore, oltre 17.000, un ulteriore fino a 30.000, perché dicono lì c'è il rischio che vinciamo sul piano militare e portiamo tutto a casa, no? Tutto il cucuzzaro, come si dice, a casa in tempi rapidi. Lui su questo per fortuna per il momento sembra esitare, se non sbaglio. Sì, ma comunque insomma non ci dimentichiamo che l'Unione Sovietica è arrivata a portare 500.000 soldati, certo, in Afghanistan. Certo, in questo momento ce ne sono 30.000 della NATO e 30.000 degli Stati Uniti, che potrebbero raddoppiare probabilmente, ma siamo sempre sotto. Comunque sotto, molto sotto, voglio certo. dire, non è così, e Obama l'ha capito, non è certo. così che si vince la guerra certo. in Afghanistan. Certo. La guerra in Afghanistan si può vincere soltanto, come dice lui, attraverso una strategia comprehensive, una strategia globale, che da un lato affronti i problemi della gente e dall'altro affronti i problemi regionali. E io credo che questa straordinaria apertura nei confronti dell'Iran abbia come finalità anche quella di far sì che l'Iran, come lui ha detto del resto il messaggio alla nazione iraniana, non usi più le armi del terrore e della violenza, ma si assuma insieme ai diritti che lui gli riconosce anche le responsabilità di diventare un attore regionale importante. Tu stai dicendo che il piano in sostanza è uno, il progetto è uno con il problema che naturalmente sul discorso iraniano, come sappiamo, c'è poi un terzo spigolo del triangolo che si chiama Israele, che vede queste iniziative con un sapore e un punto di vista ben diverso. Certo, non a caso appunto poche ore dopo l'intervento di certo, Obama al popolo iraniano ce n'è stato uno. Di Peres che aveva tutti altri toni, insomma, nel senso che invitava appunto il popolo iraniano a liberarsi di questo leadership religiosa fanatica, insomma. Mentre invece, ecco. No, per concludere sull'Afghanistan, Antonella, quindi lo scenario che possiamo presupporre è in pratica un doppio binario, mi sembra di capire, da parte di Obama, questo invio ormai già approvato di truppe, e a fianco a questo però non un rafforzamento delle strategie strettamente militari, ma un forte lavoro di carattere diplomatico, poi di questo si parla, no? Assolutamente sì, io direi che lui ha proprio fatto ruotare, ha fatto cambiare insomma la politica americana, mantenendo, ripeto, lo stesso obiettivo, ma molto più sul piano del dialogo che non su quello dell'intervento militare. Io credo che noi ci possiamo aspettare quello che tutti speravamo da Obama, ovvero sia un approccio molto più appunto complessivo e quindi anche complesso al problema della regione, che è una regione complessa e che è l'unico che può effettivamente aiutare a risolvere i problemi, facendo sì che, come dice lui, ci sia uno sviluppo economico, perché altrimenti la comunità internazionale non se ne potrà mai andare. Ecco quindi che il discorso che lui fa dell'exit strategy dell'America e della comunità internazionale è strettamente legato alla capacità di far ripartire l'economia dell'Afghanistan e dell'intera regione. Ecco che per concludere, comunque sentire un presidente americano che fa il discorso che ha fatto e lo conclude dicendo "This is not a perpetual drift", insomma non staremo lì in eterno, è diverso dal sentir parlare del cambio di regime a cui la precedente amministrazione faceva riferimento in strategie di questo genere, non pensi? Non c'è dubbio che è un atteggiamento di rispetto, io credo che sia alla base di qualunque rapporto tra stati, così come tra persone. E allora, voglio dire, mettendo in chiaro che c'è un cambio di atteggiamento attraverso vari passaggi, perché non dimentichiamo che c'è stato quel primo eccezionale, passato un po' inosservato, messaggio di Obama al popolo islamico. No, certo, l'abbiamo più volte sottolineato, continuano tra l'altro a questo proposito a arrivare reazioni di vario genere dall'Iran. C'è poi il discorso di questa ipotesi anche di una lettera di Barack Obama a Khamenei, alla Ayatollah. Ci sono punti di vista contrapposti, non ultimo quello di Israele, che naturalmente si è automaticamente mobilitato sull'argomento non appena ha sentito il tono della proposta di Obama. C'è anche il leader di Hamas in esilio, Khaled Meshal, che in un'intervista a Repubblica, forse l'avrete vista, parla di linguaggio nuovo rispetto alla regione utilizzato da Obama. E sempre Meshal conclude dicendo: la sfida per tutti è che sia il preludio a un cambiamento sincero della politica americana ed europea. Quanto all'apertura ufficiale a ad Hamas è questione di tempo ed è altra carne al fuoco per Barack Obama e la sua amministrazione. Tutto si sta muovendo a rastrello, tutti i nodi arriveranno presto al pettine. Come avete, come abbiamo detto nella prima parte del programma, molti fucili cominciano a puntarsi nei confronti della amministrazione. Insomma, si sta andando, credo, verso uno zenith, no, della tensione del lavoro di questa amministrazione Obama. Do me wrong, do me right. Tell me lies, but hold me tight. And save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. It's sure enough good to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't want to be lonely tonight. La notizia che sta arrivata e poi viene ribattuta in diverse salse dalle agenzie, da Johannesburg, di quelle insomma che lasciano perlomeno perplessi, salvo non essere uomini esperti del mondo, quali forse noi non saremo mai. In sostanza, il Sudafrica ha ammesso di non aver rilasciato il visto d'ingresso al Dalai Lama, perché ritiene che la sua presenza alla conferenza di pace in programma il 27 marzo a Johannesburg non è nell'interesse del paese. Il portavoce Pretoria, si chiama Ronnie Mamepa, aveva invece dichiarato che il governo sudafricano non aveva mandato l'invito al Dalai Lama per visitare il Sudafrica e che quindi questa questione del visto non esiste. Tutto ruota attorno a questa conferenza sul calcio come strumento di lotta contro il razzismo e xenofobia. Tant'è vero che poi è intervenuta la Premier League, la Lega calcistica inglese, ha detto: no, guardate, l'invito glielo abbiamo mandato noi, è tutto a posto, di fatto dite come stanno le cose stanno sul fatto che il Sudafrica è uno dei principali partner commerciali della Cina nel continente africano, rappresenta il 20,8% degli scambi di Pechino con l'Africa, investimenti 60 miliardi di rand e via discorrendo, e in sostanza la Cina naturalmente ha piacere che la questione non emerga, il governo del Sudafrica piega la testa e segue l'ordine, e Desmond Tutu, il premio Nobel per la pace, avrebbe scritto al presidente sudafricano chiedendo spiegazioni, minacciando di boicottare la conferenza se la decisione non verrà rivista e se si continua a rifiutare il visto a quella che lui stesso chiama sua santità. Nel frattempo dal Tibet non è che arrivino proprio notizie entusiasmanti, se è vero che un centinaio di monaci tibetani sono finiti in manette, fra chi è stato arrestato, chi si è consegnato spontaneamente alla polizia, ci sono stati altri disordini, una forte tensione provocata da una serie anche di provocazioni che pare sarebbero in corso in coincidenza comunque con le commemorazioni di cui abbiamo già parlato, il 50° anniversario della rivolta tibetana repressa dalla Cina nel marzo del 59. Abbiamo in collegamento, un collegamento purtroppo breve perché siamo in ritardo, Alessandro Boesi, lo avete già ascoltato qui in trasmissione, è un etnobiologo, esperto di medicina tibetana ma soprattutto grande conoscitore del Tibet, dove ha vissuto a lungo e con il quale mantiene contatti diretti. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio a tutti. Insomma, che notizie, che informazioni magari per vie preferenziali hai in questo momento dal Tibet? Ho più o meno le stesse informazioni che sono arrivate tramite i canali, diciamo, generali in questi giorni. Quello che non è stato detto è che in realtà il monaco che si è suicidato, che si è buttato nel fiume giallo, era detenuto dal 10 marzo e era stato arrestato poiché sembra che lui e altri suoi compagni stessero distribuendo al monastero di Rabia e quindi nelle cittadine limitrofe delle sorte, una sorta di dépliante, con diciamo che di protesta contro il governo cinese, insomma. Tra l'altro pare che uno di questi dicesse: meglio morire per il Tibet e per il suo popolo piuttosto che lasciarsi ingannare dai soldi dei cinesi, poiché i cinesi hanno cercato di dare soldi ai tibetani perché celebrassero il Capodanno tibetano, cosa che invece Dalai Lama aveva invitato a non fare, per ricordare quelli che avevano sofferto l'anno scorso. Poi ci sono anche notizie di proteste invece che non sono state riportate dai giornali in una regione un po' più a sud, nella cittadina di Karzé, dove sembra che da qualche settimana i tibetani stiano attuando un movimento di disobbedienza civile e cercando di boicottare le attività agricole. E ci sono state anche qui proteste un po' in tono minore e arresti di tibetani, laici e monaci. Ecco, l'ultima cosa che ti vorrei chiedere è questa. Hai la sensazione, come qualche giornale, soprattutto inglese, scrive in queste ultime ore, che si stia modificando l'atteggiamento di protesta da parte dei tibetani impegnati, attivamente impegnati sul fronte, ovvero che anche questa resistenza passiva, in un certo senso, se non sacrificale, si stia lentamente modificando in un atteggiamento, diciamo, più bilanciato, che contempla anche probabilmente strategie diverse, o no? Come la pensi? Sì, questa è la mia sensazione, sì, senz'altro. Tra l'altro mi sembra che adesso, in quest'ultimo periodo, soltanto adesso i tibetani osano apertamente proprio inneggiare l'indipendenza del Tibet, esporre bandiere del Tibet. E tra l'altro anche tra la comunità dei tibetani in esilio sembra che delle fazioni non siano più d'accordo con la politica del Dalai Lama. Certo. E quindi non si sa quello che... Che le forme di resistenza stiano, certo, stiano modificando e si stiano anche variegando. Grazie ancora a Alessandro Boesi, che risentiremo in questi giorni per seguire l'evoluzione di questa situazione nell'area di crisi tibetana. Siamo in fondo, accidenti, dovevamo parlare qua, c'è il March Madness in corso, le finali del campionato di college, poi che ve ne frega. A noi e pochi altri ci interessa, quindi mancando un minuto alla fine della trasmissione, questo minutino lo spenderemo per informarvi che per ora Jefferson e Obama marciano insieme, 4 su 4 lui, 4 su 4 noi, i nostri candidati alle Final Four sono ancora tutti lì, i suoi, ma sono lì tutti lì anche i nostri, quindi non è che la sa più lunga di noi. Io vi ricordo che il president vuole una finale North Carolina-Louisville con North Carolina campione, invece Jefferson, che la sa lunga da 200 rotti anni, dice che Oklahoma batterà in finale Memphis. Da 64 sono rimaste 16, si ricomincia giovedì, caro Obama, vediamo poi chi la vince e chi paga il caffè. Qui a Jefferson 2, l'arte della svolta, Stefano Pistolini, in redazione Milano Enrico, in regia Valerio Rocchetti a Roma e Filippo Aureggi a Milano. Jefferson 2 è radio24.it, su Facebook le nostre pagine sono redazione Jefferson 2, quella appunto della redazione, Jefferson 2 Radio 24, Express Yourself per partecipare ai forum, iscrivetevi numerosi, ascoltate se volete la replica a mezzanotte o in podcast sul sito della radio o dal vivo domani attorno alle 4 qui su Radio 24.